Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dal rapporto dell'OCSE sulle disuguaglianze sociali. È un rapporto che non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti i paesi dell'OCSE, dove, come già anticipavano i nostri GR24, però emerge che la crisi ha colpito tutti dal 2007 in poi, ma ha colpito, ecco perché doppiamente bastarda, diciamo così, più le popolazioni, la fascia di popolazione povera rispetto alla fascia al 10% più ricco, nel senso che la perdita di reddito disponibile tra il 2007 e il 2011 è stata più elevata, meno 4% per il 10% più povero, rispetto al 10% più ricco, che ha visto ridursi il reddito disponibile di solo l'1%. In aggiunta cresce anche il famoso indice di Gini, è l'indice che a livello mondiale misura la disuguaglianza economica e quindi anche sociale in un paese, perché poi il PIL pro capite è una media di Trilussa. L'indice di Gini va a vedere come questa ricchezza sia distribuita all'interno dei vari corpi sociali, degli strati sociali. Ebbene, in Italia in questi anni è aumentato, ossia è passato da, l'indice di Gini va da 0 a 1, a 1 vuol dire che è molto alto, 0 vuol dire che ha il massimo di distribuzione nel paese. Ebbene, è salito di 33 punti sostanzialmente, se lo guardiamo nel suo complesso. Ne parleremo in apertura. La nota più positiva per quello che riguarda l'Italia è il livello di indebitamento delle famiglie italiane, che resta il più basso dell'area OCSE, il 25%, contro tasse del 44-47% in Germania e in Francia come livello di indebitamento. Di questo parleremo tra poco. Parleremo anche dell'acciaio, o meglio dell'ILVA. Perché? Perché oggi c'è stata l'assemblea di Federacciai nel corso di Made in Steel, dell'evento Made in Steel, e il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha detto: attenzione, c'è poco tempo per salvare l'ILVA, servono altri 2 miliardi e mezzo per far ripartire l'impianto. C'è stato invece una replica del direttore generale di ILVA, Massimo Rosini, che ha anche abbandonato l'assemblea, è il direttore generale dell'ILVA appunto, e ha detto: non condivido per nulla l'analisi del presidente Gozzi e le cifre da lui indicate non trovano alcun riscontro nei risultati della società. Ne parleremo più avanti, dovrebbe essere ospite lo stesso presidente Federacciai Gozzi. Anche di questo, dicevo, parleremo. E poi ovviamente l'appuntamento di questa sera, ossia a Riga si apre il vertice dell'Eurogruppo dei ministri economico-finanziari dell'area euro, più delicato da tempo, perché quello, diciamo così, tante volte abbiamo detto l'ultimo appello per la Grecia, per arrivare a un accordo con la Grecia e sulla Grecia. Beh, questo sembra veramente essere l'ultimo appello, dopo che ieri la Grecia ha fatto sapere che non potrà ripagare in queste condizioni la rata, la prima rata in scadenza di prestito del Fondo Monetario Internazionale a inizio giugno, 300 milioni, ma ripeto, ricordiamo che oltre alla rata del 5 giugno, nelle settimane successive la Grecia dovrebbe ripagare al Fondo Monetario altre rate, altri prestiti, per un totale di 1 miliardo e 200 milioni. E ieri poi la ciliegina sulla torta l'ha messa il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il quale ha detto di non poter escludere la possibilità di un default, di un fallimento della Grecia. Poco fa il presidente della Commissione Europea Juncker ha detto di essere personalmente coinvolto nella trattativa. Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha detto che c'è ancora molto da fare. Il ministro dell'economia greco, il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, ha definito fantascienza le notizie di stampa secondo cui l'Eurogruppo starebbe studiando la possibilità di allungare fino all'autunno l'attuale piano di salvataggio della Grecia in scadenza il 20 giugno. e poi nega di aver registrato la riunione dell'Eurogruppo e ha smentito di essere stato insultato dall'Eurogruppo di Riga, quello del mese scorso, quello in cui invece molte agenzie riportavano il fastidio anche proprio quasi di carattere personale di molti ministri al dopo l'intervento di Varoufakis. Ancora ne parleremo, ripeto, più avanti. I mercati: meno 0,13% in questo momento Milano, più 0,15% Parigi, invariata Francoforte, Londra più 0,12%, euro su dollaro a quota 1,11, Tenaris più 2% e Azimut più 1,80 sono i migliori titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione. CNH più 1,25, Finmeccanica più 1,1, Unipolsai più 0,90, Terna più 0,80, come A2A lo 0,60 lo guadagna Fiat Chrysler, perde il Monte dei Paschi anche oggi il 3%, e parleremo dell'aumento di capitale. Mediobanca meno 2, Pop Milano meno 1,80, come la Popolare Emilia Romagna meno 1,40, Luxottic meno 1,20, sia Tod's che Moncler. 349-238-6666 per i vostri sms. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, le altre notizie in breve. Stati Uniti, dove le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi da 15 anni a questa parte, a segnalare che gli Stati Uniti, lo so, lo dico fino allo sfinimento, ma è la storia e sono i dati di fatto. Gli Stati Uniti in questi anni, con una politica opposta a quella che ha voluto seguire l'Europa, e quindi aumentando l'inflazione un po', erogando 120 miliardi di dollari, stampando 120 miliardi di dollari al mese, tenendo i tassi vicini allo zero, quindi con una politica che alcuni potrebbero chiamare keynesiana o comunque anticiclica, visto che si era in recessione, sono ampiamente usciti dalla recessione e sono tornati ai livelli, anche come richieste di sussidi, di 15 anni fa. Noi invece siamo ancora qui dopo 5 anni, dunque la crisi greca scoppiò nel 2010, quindi sono 5 anni e se non ricordo male era proprio l'aprile, marzo-aprile del 2010, sono abbastanza sicuro. 5 anni che ci smazziamo la crisi greca senza riuscire a uscirne sostanzialmente, vedremo poi stasera cosa capiterà, ma bene che vada, si farà un'altra concessione alla Grecia, si allungherà la scadenza del debito, cioè si prenderà atto che a queste condizioni tanto i greci non sono in grado di pagare i 320 miliardi di debito, o meglio non sono 320 quelli che devono ripagare, ma anche se sono molti meno non sono in grado di pagare in maniera, diciamo, formalmente corretta, come vorrebbero le vestali del patto di Maastricht e dei trattati europei, i debiti che hanno. Allora, veniamo all'Italia. Nel 2015, e questa è la previsione del presidente dell'ICE, dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, Riccardo Monti, si supereranno i 500 miliardi di euro di export. Già l'anno scorso ha avuto un dato record come esportazioni italiane e appunto chi dirige l'ICE sostiene che quest'anno si arriverà a un nuovo dato record. Le imprese italiane esportatrici aumenteranno di 10.000 unità, arrivando a 220.000. Un tema di cui ha già parlato prima di me Oscar Giannino, mi riferisco al rapporto Union Camere, 23.000 assunti nel 2015 nelle piccole e medie imprese, soprattutto per quelle attive sul web. Questa è la previsione di Union Camere, che riunisce tutte le camere di commercio italiane. 23.000 in più, appunto 595.000 nuovi contratti pianificati, dei quali 475.000 assunzioni di personale da dipendenze dirette, 122.000 atipici, più 82,5% i contratti a tempo indeterminato, 73.000 in più rispetto all'anno prima, soprattutto nel nord-ovest. Union Camere però non specifica le cessazioni, quindi torniamo, io lo dico con massimo rispetto, però un dato difficilmente confrontabile, perché ci dite anche quante sono le cessazioni e quanti di questi contratti nuovi di carattere da tempo indeterminato sono nuovi contratti o sono rimodulazioni di contratti già esistenti, quindi da CocoPro, da tempo determinato, da partita IVA, diventi a tempo indeterminato, finché non avremo questo dato complessivo, l'informazione è parziale e rischia di creare confusione. Comunque, il presidente di Uncamere, Ferruccio Dardanello, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, sottolinea che il 2015, che guardano con ottimismo al 2015. L'economia italiana sta migliorando, il paziente Italia non è ancora guarito nella sua eccezione più ampia, quindi per favorire la ripresa c'è bisogno assolutamente di una forte innovazione all'interno dei nostri processi e delle nostre produzioni. Soltanto andando in questa direzione le imprese devono avere la contezza che possono rimanere competitive. Certo, oggi c'è bisogno di una grande azione di evangelizzazione su questi temi, perché nei confronti ancora dell'Europa, ad esempio, siamo ancora in terribile ritardo e abbiamo delle potenzialità noi a casa nostra che probabilmente nessun altro ha. Io dico, la cultura, i sapori, i saperi del Made in Italy legati proprio alla valorizzazione, anche in questa direzione non possono che permetterci di poter fare in prospettiva passi in avanti, ma dobbiamo avere tutti questa consapevolezza e dobbiamo avere la contezza che lavorando in questa direzione, in sinergia tra istituzioni, tra governo, tra mondo delle associazioni e tra mondo delle imprese, si possono raggiungere questo obiettivo per rivedere questo Made in Italy che piace così tanto al mondo, veramente protagonista assoluto anche del nostro domani. E poi il ministro Poletti che dice: è indiscutibile l'aumento dei contratti a tempo indeterminato. Ha ragione Poletti, è indiscutibile che siano aumentati i contratti a tempo indeterminato. Ripeto, poi bisogna capire, e lo dirò anche questo fino allo sfinimento, per correttezza e onestà intellettuale, quanti di questi sono vecchi contratti rifatti a tempo indeterminato e quanti siano contratti nuovi di gente che prima non lavorava. È comunque positivo se anche a parità, diciamo, di occupati cambia la qualità del contratto, cioè che rispetto a un CocoPro o una partita IVA un tempo determinato sia meglio il tempo indeterminato, è fuori discussione, anche perché appunto non vai al rinnovo ogni 3 mesi, hai le garanzie anche in caso di licenziamento, di indennità o 2 mesi ogni anno lavorato per un minimo di 4 mesi, e hai la malattia, hai la maternità, però questo è importante sulla qualità dei contratti. Se poi uno vuole invece capire come va il mondo dell'occupazione italiano, questi dati non ci dicono ancora nulla, nel senso che sono dati solo parziali. Comunque Poletti, un dato che è chiarissimo è la tendenza alla stabilizzazione, cioè il fatto che i contratti sono molti di più i contratti a tempo indeterminato. Io considero questo un dato importantissimo perché cambia la natura del mercato del lavoro di questo paese. Fino a ieri i contratti per l'85%, gli avviamenti al lavoro erano precari. CocoPro, CocoCo, tempo determinato, associazione in partecipazione, tutte le tipologie possibili. Nessuno pensava di assumere con un contratto a tempo indeterminato. Oggi, se il tempo indeterminato torna ad essere il modo normale di assunzione, le persone che sanno che rimarranno in un posto di lavoro più a lungo investiranno su di sé, si impegneranno, impareranno meglio il mestiere, le imprese investiranno su questi giovani, su questi lavoratori, perché sanno che rimarranno per lungo tempo in quelle imprese, quindi è un bene averci persone impegnate che sanno le cose, che si sentono responsabili di ciò che avviene. Beh, io credo che sia un cambiamento qualitativo importantissimo. Are you with me? Are you with me? Nel frattempo, visto che parlavamo di occupazione, 2 ore di sciopero lunedì a Fabriano, alla fabbrica della Whirlpool, dopo l'annuncio, il nuovo annuncio di un piano di ristrutturazione più pesante anche di quello già annunciato, che porta gli esuberi totali a 2060, sono 200 in più solo a Fabriano. Il ministro Guidi, sempre a margine dell'assemblea di Federacciaio, si è detta fiduciosa che ci siano margini, i contatti tra le parti continuano, l'occupazione resta la priorità, e va bene, meglio non va bene, ma speriamo. Tutto questo nel giorno in cui l'OCSE, come anticipavo, ci fa sapere che il 14,3% della ricchezza di questo paese è in mano all'1% della popolazione. E invece il 40% più povero detiene solo il 4,9%. E uno può dire, vabbè, ma anche prima eravamo un paese disuguale. Infatti, secondo me, la cosa più importante è vedere come si è modificata la distribuzione della ricchezza da quando è scoppiata la crisi. E ripeto, tra il 2007 e il 2011 la perdita di reddito disponibile è stata del 4% per il 10% più povero e solo dell'1% per il 10% più ricco. La concentrazione della ricchezza è particolarmente marcata verso l'alto: il 20% più ricco detiene il 61% della ricchezza, mentre il 60% della popolazione deve accontentarsi del 17,5% della ricchezza. L'aumento della povertà in Italia durante il periodo della crisi è stato tra i più elevati nei paesi OCSE, soprattutto per i giovani e giovanissimi. Il cosiddetto tasso di povertà ancorata, che fissa la soglia rispetto all'anno precedente, è stato di 3 punti tra il 2007 e il 2011, lasciamo stare la classifica, è il quinto più elevato. Il maggior tasso di povertà si registra tra chi ha meno di 18 anni, 17%, che è un 4% più della media europea. L'occupazione, che aumenta solo grazie ai posti atipici. E però attenzione, perché il 26% delle famiglie dei lavoratori atipici sono vicine al tasso di povertà, mentre solo il 5% dei lavoratori stabili. E poi l'indice di Gini, comunque, di questo aveva già parlato, come andamento della povertà, il presidente dell'INPS Tito Boeri ieri, se non ricordo male, 2 giorni fa, ricordando come da quando è scoppiata la crisi i poveri siano cresciuti da 11 a 15 milioni. Il dato più grave di questa crisi è legato a quello che è successo alla povertà. Noi abbiamo avuto un aumento dell'incidenza della povertà di circa un terzo, passata il conteggio delle famiglie che si trovano al di sotto di una soglia di povertà definita prima della crisi e mantenuta costante in termini reali negli anni successivi. La percentuale di famiglie è salita dal 18 al 25%, quindi un aumento di un terzo. Da 11 a 15 milioni di persone si trovano in questa condizione, questo nel giro di 6 anni. Che è un dato, appunto, quello di Boeri, in linea con appunto i dati che commentavamo dell'INPS di oggi, dell'OCSE di oggi. L'indice Gini, ripeto, può sembrare poco, ma siccome è un indice che va da 0 a 1, un passaggio da 0,313 a 0,327 non è pochissima cosa, quindi l'aumento della disuguaglianza è come se in un indice che va da 1 a 1000 tu fossi passato da 313 punti a 327 come punti di disuguaglianza. E l'unica notizia buona, confermo, è quella che vede l'Italia all'ultimo posto, o meglio con la percentuale più bassa di famiglie indebitate, appunto un quarto, il 25%. Ma pensate che in Francia sono il 47%, in Germania pure, in Gran Bretagna il 50%, per non parlare poi fuori dall'Europa, degli Stati Uniti, dove il ricorso al debito è da sempre culturalmente utilizzato, siamo al 75%. Ora uno potrebbe concentrarsi in primo luogo su alcuni spunti di questo rapporto OCSE. Penso al fatto che l'occupazione in Italia dagli anni 90 a oggi sia aumentata solo grazie ai posti atipici, i posti non standard, e quindi lavoro autonomo, contratti a termine e part time. E la percentuale che è passata dal 23% del 1995 al 40% del 2013. Oppure il fatto che il 26% delle famiglie di lavoratori atipici sia vicino alla soglia di povertà, mentre solo il 5% di quelle di lavoratori stabili. In realtà la cosa che a me più interessa all'inizio è capire come mai, e ce lo dice l'OCSE, dal 2007 al 2011, quando si è abbattuta anche in questo paese la più grande crisi dal 29, ha pagarne in termini di reddito disponibile sia stata la fascia più povera rispetto a quella più ricca. Ora uno dirà: ma che banalità. No, attenzione, perché qui parliamo di potere d'acquisto, di reddito disponibile. Allora uno potrebbe immaginare che la parte più povera della popolazione, se non ha perso il lavoro, avesse minori contrazioni di reddito disponibile, perché già era su una fascia molto debole, e diciamo il grosso calo del reddito disponibile, dei fatturati, si concentrasse sulla parte più ricca. È avvenuto esattamente il contrario: meno 4% il reddito del 10% più povero, meno 1% il reddito del 10% più ricco. Professor Mauro Magatti, che è preside della Facoltà di Sociologia all'Università Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. So che ma è ovvio che la crisi penalizza i più poveri. No, non dovrebbe essere ovvio, nel senso che teoricamente dovresti vedere una compressione del reddito in chi aveva grandi fatturati, non in chi aveva già uno stipendio, diciamo, basso o al minimo. Come mai la crisi colpisce due volte, cioè colpisce tutti, poi una seconda volta chi è già più povero? Ma perché la crisi ha interrotto quella espansione un po' drogata, diciamo, che è stata prodotta dalla finanziarizzazione. Le politiche che sono state utilizzate in America, soprattutto col quantitative easing, e poi a seguire in Europa, hanno dato un po' di fiato, ma non hanno corretto le strutture dell'economia. Quindi è stata immessa molta moneta che poi ha continuato ad alimentare i circuiti finanziari, e quindi una quota piccola di popolazione. Dal punto di vista dell'economia reale invece le cose sono andate piuttosto male, e l'intermediazione dello Stato, soprattutto in Italia, poi è molto scadente, e l'insieme di queste cause porta a questo risultato. E il 10% più ricco come se lo spiega? Sì, il 10% più ricco si spiega per due ragioni, anzi forse per tre. Primo, perché la globalizzazione e le esportazioni, piuttosto che la ricerca di alto livello, piuttosto che richiede, come dire, competenze, capacità, l'appartenenza a istituzioni che sono in grado di reggere quel livello, e quindi non può che interessare una quota piccola. Secondo, perché appunto i mercati finanziari la fanno da padrone anche nel 10% più ricco, e quindi sono solo pochi che possono accedere lì. E terzo, che si sono create anche nei paesi occidentali delle grandi sacche di rendita. La rendita comunque produce vantaggi per pochi. Allora, resti con noi, professor Magatti, perché ci sono altri aspetti che vorrei toccare con lei, e soprattutto anche qualche soluzione, perché qui il tema del welfare poi è un tema. Fino agli anni 70 il modo in cui un paese riduceva l'indice Gini era il tipo di welfare che si dava, cioè attraverso welfare lo Stato si cercava di redistribuire in maniera più uguale. Non tutti, nel senso che ci sono paesi come il mondo anglosassone che da sempre hanno avuto, Stati Uniti e Gran Bretagna, un indice di Gini molto alto, cioè una disuguaglianza, tuttora lo confermano, più alta, però almeno c'è minor carico fiscale, c'è uno Stato meno intrusivo. Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Trentotto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Magatti, dicevamo dell'indice di Gini, quello che misura la disuguaglianza, o meglio, quanto più è disuguale una società nella redistribuzione. Anche qui potevamo immaginare che se la crisi dal 2007 in poi avesse funzionato come una vera livella, tutti ci saremmo impoveriti nello stesso modo, e quindi paradossalmente l'indice di Gini sarebbe rimasto invariato, no? Cioè un calo verso il basso di tutte le varie fasce sociali della popolazione. Così non è stato, perché se tutti avessimo perso in percentuale lo stesso potere d'acquisto, sarebbe rimasto a 313, come dico io, a 0,313, invece è arrivato a 0,327, con una disuguaglianza da noi più alta rispetto a Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Norvegia, peggio di noi solo Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, che sono proprio un altro continente. Lei se lo aspettava che comunque anche l'indice che misura la cattiva redistribuzione sociale sarebbe aumentato, ossia che un po' come nella fattoria degli animali di Orwell, per alcuni ci sarebbe stata più crisi che per altri? Sì, ma io me l'aspettavo, nel senso che si conferma in realtà un dato storico. L'Italia è in una posizione strana, perché ha livelli di disuguaglianza non da oggi simili a Stati Uniti e Gran Bretagna, che sono paesi molto liberali e che compensano almeno dal punto di vista delle opportunità, e nello stesso tempo ha una presenza massiccia dello Stato come Francia e Germania, ma però uno Stato inefficiente è uno Stato alla fine ingiusto e non produce almeno gli effetti di redistribuzione che in quei paesi ottiene. Cioè, posso tradurre in un altro modo? Abbiamo le stesse tasse di carico fiscale dei paesi dove lo Stato è ben presente e il welfare è ben presente, appunto la Francia, la Germania e altri paesi, non parliamo della Svezia e il resto. Però abbiamo le disuguaglianze della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Cioè, perfetto. La prendiamo in tasca due volte. Esatto, questo per dirla in soldoni è così. E questo è il paradosso, no? Nel senso che quando si fa la critica allo statalismo, alla distruzione di risorse pubbliche, è giusto in Italia perché qui lo Stato non fa quel lavoro di mediazione prezioso che altrove riesce a fare. E quindi alla fine resta veramente dico banalmente che la nostra rubrica, la top 5 degli sprechi della pubblica amministrazione ogni settimana il venerdì, racconta, pur parlando delle volte di decine di migliaia di euro, di centinaia di migliaia di euro, non cifre enormi, che cosa significhi poi avere una tassazione che non porta a una redistribuzione di servizi, di welfare, di iniziative pubbliche, ma alla cattiva abitudine, alla malversazione, alla corruzione, agli sprechi di denaro pubblico. Ti becchi le tasse della Francia e diciamo i servizi degli Stati Uniti, magari in alcuni casi. Sì, aggiungiamo che nei paesi invece anglosassoni, dove lo Stato spende poco e media poco, lì c'è una forte presenza della politica. Cioè lì comunque l'economia e la società sono sostenute da una politica che ha una capacità di visione di azione internazionale. Dunque non si tratta di immaginare una società, un'economia che stanno in piedi da soli, si tratta di immaginare una società, un'economia che si appoggiano a una politica, a uno Stato che sanno quello che stanno facendo. In questo, al di là del fatto che comunque le famiglie italiane restino, ripeto, sotto la media, con la percentuale più bassa di famiglie indebitate, ma questo è dovuto sia al grande risparmio di questi decenni delle famiglie italiane, sia a una nostra minore abitudine a indebitarsi. Possiamo dire che a questo punto il tornare a crescere dal punto di vista economico sarà più conveniente per la fascia più povera, visto che la crisi ha colpito più la fascia più povera di quella più ricca rispetto a quella più ricca, oppure no, perché se tu non rimetti in piedi politiche virtuose di redistribuzione c'è il rischio che anche di fronte a una ripresa economica l'indice di Gini continui a aumentare? Purtroppo è la seconda, nel senso che lo si è visto già negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, che in questi anni sono andati meglio dell'Europa, certo, perché appunto le politiche di alimentazione finanziaria sono state prese prima. Lì hai un PIL che è superiore all'1%, ma è un problema di ricchezza che continua a concentrarsi, di discesa dei salari e di aumento dell'indebitamento del ceto medio. Cioè non è per nulla automatico che dalla ripresa se ne ottengano benefici sociali diffusi. Questo è un grande nodo, in America c'è un grande dibattito su questo, ci sono premi Nobel come Stiglitz e Krugman che insistono sul fatto che per uscire da questa crisi, insieme a un sostegno finanziario, ci vogliono investimenti e una redistribuzione della ricchezza più equa. Senta, mi dia, alcuni scrivono un sociologo, un tuttologo, no, mi dia una sua proposta. Vabbè, non tutte le categorie godono di buona stampa, si figuri la nostra. Assolutamente. E anche la vostra. Però mi dica una soluzione concreta. Adesso non le chiedo di fare il policy maker, il politico che fa le scelte, dovremmo avere già eletto o non ha letto chi fa le scelte, però come se ne esce? Perché tornare a dire riprendiamoci in mano il welfare, beh, noi abbiamo anche raccontato di come il welfare che dobbiamo immaginare per i prossimi anni non può essere quello degli anni 70, quando si moriva a 69 anni, c'era un tasso di natalità per cui la popolazione cresceva di 20 milioni in 30 anni e sostanzialmente tu riuscivi ad avere un welfare perché tutta la massa dei baby boomers pagava le pensioni e il welfare di chi diventava anziano. Con che tipo di welfare si riesce a ridurre l'indice di Gini? Ma no, io non credo che il nodo sia il welfare. Allora, io dico due cose. Primo, che le politiche finanziarie che si stanno seguendo non sono la soluzione, ma sono un modo per guadagnare tempo. Cioè, c'è una malattia, c'è una società, un'economia malata, serve per guadagnare tempo. Bisogna però, questo è il punto dal mio credo centrale, capire che nella nuova fase storica con la Cina, l'India, la Russia, tante cose, insomma, bisogna prima produrre ricchezza, cioè produrre valore, qualità, investimenti, ricerca, buona scuola. Prima si deve produrre ricchezza individualmente e collettivamente, e se si produce ricchezza si consuma e anche si producono beni collettivi di welfare. Non è più vero, come dire, come negli ultimi 30 anni, che semplicemente i consumi generano ricchezza. Ben intesi, i consumi sono importanti per avere un'economia prospera, però sono il portato di una società che sa produrre valore. Questa è la svolta, credo, culturale e anche politica a cui dobbiamo far fronte. Ma questo perché ormai molti dei consumi erano bisogni indotti, cioè non consumi reali, e di fronte a una neosobrietà, se tu non torni a produrre ricchezza vera, non torna a far ripartire i consumi? Per due ragioni, perché innanzitutto noi siamo società oggettivamente invecchiate e opulente, quindi è difficile immaginare che dai consumi venga una spinta rilevante. E secondo perché i grandi mercati sono altrove, noi dobbiamo avere qualcosa da offrire a loro e anche buone ragioni per cui tanti flussi finanziari che girano per il mondo decidono di venire qui. Chi fa qualità diventa capace di esportare, diventa capace di attrarre. Però io dico che bisogna far qualità, che non è solo essere efficienti, è qualcosa di più, è avere un ambiente, un rispetto dell'ambiente che diventa un valore per tutti, appunto servizi di welfare piuttosto che servizi giuridici qualificati, cioè una qualità, come dire, che non è solo strettamente economicistica. Però lei dice, una volta che tu riuscissi ad avere una giustizia, traduco anche in maniera un po' prosaica, una giustizia civile che funziona, un welfare che la smette di sprecare con costi che variano da regione a regione in questo paese, penso ai costi sanitari, e la smette anche di rubare in alcuni casi. Una scuola premiante, qui dovrei tornare al tema del merito nella scuola, ma già ce ne siamo occupati ieri, un'università, aggiungo io, in competizione, no? In cui vi contendete i professori migliori in modo che gli studenti, diciamo, cercheranno di andare nelle università migliori. A quel punto un paese che produce ricchezza perché attrae investimenti e esporta è in grado di tornare a consumare, ma non altrimenti. Sì, esattamente. In questo senso, in questa nuova fase che si è aperta dopo il 2008, conta molto la visione politica, la capacità della politica di prendere decisioni ma anche di ricreare coesione. Prendiamo il caso del Job Act. Il Job Act va benissimo perché avevamo bisogno di una serie di innovazioni nel mercato del lavoro, a condizione che sia l'occasione per investire sul lavoro, farlo crescere e come dire, allargare la nostra base lavorativa. Se le imprese dovessero utilizzare questa nuova legge per sfruttare, diciamo così, di più il lavoro, sarebbe un disastro per tutti. E sulla riforma della scuola me lo dà un commento? Beh, la stessa cosa per la sul scuola. Sul tema dei prestiti, della levata di scudi, perché il prestito è una quota marginale del corpo docenti, può chiamarle in maniera diretta e poi essere giudicato per questo gli ispettori sul lavoro, e l'introduzione anche di bonus per i professori più meritevoli. Sì, allora sono due principi giusti, che ci sia qualcuno in grado di decidere in termini di organizzazione di scelta dei professori e il merito dei docenti. I due principi sono giusti. Naturalmente noi sappiamo che i principi devono essere declinati in forme concrete. Credo che si possa dire ragionevolmente, per quello che si sa, che una buona parte degli attuali dirigenti scolastici onestamente non ha tutte le caratteristiche adatte per svolgere quella funzione. Allora qui bisogna salvare il principio e poi discutere anche un po' concretamente, prosaicamente, anche come dire, con delle sperimentazioni, come si fa poi a raggiungere le condizioni perché il principio si traduca in qualcosa di sensato. Se no il principio viene affermato e poi dopo il risultato sarà un disastro. Capito cosa dice lei. E beh, se poi lo dice conoscendo anche il mondo dell'istruzione. Grazie, grazie a Mauro Magatti, preside della Facoltà di Sociologia all'Università Cattolica di Milano. Grazie a voi, arrivederci. Traffico. Focus Economia. Minuti, adesso la borsa che oggi ha chiuso alla fine con un calo dello 0,14% nel finale. Milano più 0,26%, Parigi più 0,14%, Francoforte invariata, Londra, l'America invariata, euro su dollaro a quota 1,11, ancora Tenaris più 2, Azimut più 1,60 come CNH Industrial, Finmeccanica più 1,1 come A2A, Buzzi Unicem più 1%, fronte opposto Monte dei Paschi meno 3%, Pop Milano meno 2, Pop Emilia Romagna meno 1,80 come Mediobanca, Luxottica perde l'1,30 come Tod's e Moncler, l'1,1 lo cede Mediolanum ma anche Autogrill. Allora, giornata piatta in tutta Europa, devo dire, l'euro diciamo a quota 1,11, partiamo dal Monte dei Paschi, c'è il Consiglio di Amministrazione oggi, l'aumento di capitale dovrebbe scattare lunedì. Flavia Carletti, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Appunto, MPS, come dici tu, è stato il peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari e non è la prima seduta in cui va male, già nei giorni scorsi era stato molto penalizzato dalle vendite proprio in attesa di questo aumento di capitale che dovrebbe partire lunedì prossimo. Oggi c'è l'attesa del CDA in cui dovrebbero essere fissate le condizioni dell'aumento, quindi probabilmente il mercato in attesa di queste indicazioni in questi giorni ha preferito vendere il titolo e MPS è un poi si è trascinata dietro tutti i bancari in una giornata negativa a Milano, tanto che appunto in una giornata un po' piatta Milano è andata peggio delle altre proprio perché sul listino milanese pesano di più i bancari che essendo stati venduti hanno trascinato un po' più giù rispetto agli altri indici il FTSE MIB. Ancora tra i titoli ricordavo appunto le banche popolari Emilia Romagna appunto e Milano, oggi anche il lusso ha sofferto, lo citavamo prima, sì. Qui c'è un rapporto sulle vendite in regime di tax free. Quindi, esattamente, oggi c'è stato l'osservatorio di alta gamma, sono stati portati una serie di relazioni, tra cui ad esempio quello di Global Blue, che è una società proprio specializzata in queste vendite, e hanno mostrato che nel mese di aprile c'è stato un rialzo del 7% a livello europeo, però l'Italia ha fatto peggio del resto del continente. Infatti le vendite in Italia in questo particolare mercato sono salite solamente dell'1% rispetto a un anno fa, quando la Francia per esempio è riuscita a fare più 15%, addirittura anche la Germania più 9%, e quindi nonostante sia stato un calo degli acquisti soprattutto da parte degli acquirenti russi, gli altri mercati hanno mostrato comunque una tenuta superiore rispetto a quella italiana. Sì. Ancora Telecom invece oggi altalenante, ma l'abbiamo vista in calo del 0,53%, attesa per la riassettazione aerea. Domani c'è il CDA di Telecom. Sì, esattamente. E poi ha anche confermato, ricordiamolo, l'IPO di Inwit, no? Sì, appunto, oggi è stata uno dei titoli comunque più scambiati della giornata. Alla fine ha perso un pochino, era stata altalenante un po' sulla soglia della parità per quasi diciamo la prima parte della seduta e comunque è stata sotto i riflettori perché ci sono state molte indicazioni. Appunto, questa mattina è stato ufficializzato questa quotazione del 40% della società delle torri che già era stata preannunciata ieri dalla D Marco Patuano, che aveva detto comunque la società vuole mantenere la maggioranza assoluta. Sì, il 40% vendono, no? E poi appunto domani c'è il CDA che secondo il presidente Recchia sarà una riunione comunque su molti temi e poi c'è questa attesa soprattutto per le autorità argentine che dovrebbero dare comunque il semaforo verde al riassetto azionario e si parla appunto sempre di questa quota oltre il 5% che dovrà passare da Telefonica alla francese Vivendi e quindi si aspetta, anche se in discrezione dicono che probabilmente bisognerà aspettare giugno. Allora, Flavia Carletti, grazie. Migliori e peggiori dopo il GR24, poi la Grecia e l'Ilva. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. No need to love and cry. It's a wonderful, wonderful life. Otto e 9 minuti, stavamo concludendo l'aggiornamento di borsa. Allora, al di là dei titoli principali, migliori e peggiori, di nuovo molto bene la debuttante ieri. Bio2, un altro 28% di rialzo oggi a 6,02 euro il titolo. Faccio notare che già ieri aveva fatto un più 35%. Poi bene Bioera più 19, Poligrafici Printing più 17, Fedon più 12, Bion più 10,60. Fronte opposto invece Microspore meno 7%, IKF meno 5,70, Lucisana Media Group meno 5,20% e poi appunto il Monte dei Paschi di cui abbiamo già detto. Allora, stasera si apre a riga il vertice dell'Eurogruppo che dovrà affrontare il passaggio finale per la Grecia. È sempre Riga, per chi di voi lo ricorda, immagino qualcuno lo ricordi, che ospitò un mese fa il vertice, quello in cui trapelarono le indiscrezioni secondo cui i ministri economico-finanziari degli altri paesi europei erano profondamente, anche quasi a livello personale, irritati con il ministro delle finanze greco Varoufakis, definito arrogante, che veniva lì a fargli la lezioncina di economia e non a prendere, a cercare di mediare politicamente come dovrebbe fare un politico, e soprattutto un politico greco in questo momento. Stasera si replica, stasera e domani, con però un fardello ancora più pesante rispetto a un mese fa, perché ieri la Grecia ha fatto sapere che senza un accordo non sarà in grado di ripagare il Fondo Monetario Internazionale a inizio giugno. La prima rata scade il 5 giugno, 300 milioni, poi vi sono altre rate nelle due settimane successive che sostanzialmente valgono 1,2 miliardi. E poi ieri il ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, parlando al Wall Street Journal, ha detto di non poter escludere la possibilità di un default, di un fallimento della Grecia. Juncker, il presidente della Commissione, dice di essere personalmente coinvolto nella trattativa. Il vicepresidente della Commissione Valdis Dobrovskis dice che c'è ancora molto da fare, bisogna accelerare i negoziati, la situazione della liquidità di Atene è complicata. Varoufakis ha definito fantascienza l'ipotesi di che l'Eurogruppo allunghi fino all'autunno l'attuale piano di salvataggio della Grecia in scadenza il 20 giugno. E ha detto: non ho ricevuto insulti all'Eurogruppo di Riga di un mese fa. E poi però l'ha ripreso il presidente dell'Eurogruppo, Ron Dijsselbloem, dicendo: gli incontri dell'Eurogruppo sono confidenziali, confidiamo che ogni partecipante rispetti quella riservatezza. Vabbè, ma queste sono frattaglie. Il vero problema è capire se, al di là delle dichiarazioni delle schermaglie, si intraveda la possibilità di un accordo, perché faccio notare che dopo Riga, in questo senso, il vertice di stasera, e a quel punto il prossimo appuntamento è la scadenza greca al Fondo Monetario Internazionale. Vittorio D'Arold, buonasera, adesso buonasera 24 ore. Allora, c'è, al di là delle schermaglie, dei battibecchi, delle precisazioni, insomma, una possibilità che i leader della zona euro potrebbero, secondo indiscrezione queste del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, fare ancora una volta uno spacchettamento, cioè dare un pezzetto di questo credito che è fermo da agosto e congelato da agosto di 7 miliardi, darne 4 miliardi in cambio di una riforma per l'aumento dell'IVA. Cosa che il governo di Atene avrebbe già predisposto, perché c'è una situazione speciale per le isole dove c'è una IVA ridotta, una cosa abbastanza strana perché le isole sono quelle che invece ne hanno meno bisogno, perché sono la meta privilegiata, ma tant'è, e quindi aumenterebbe anche lì. In più Atene vorrebbe mettere uno sconto del 3% su questo aumento dell'IVA per chi paga in contanti, questo per la nota problema che insomma non sono in molti quelli che appunto pagano regolarmente ed emettono ricevute fiscali. Quindi il progetto, una delle ipotesi, è quello di dire: vi do 4 miliardi sui 7,2 che sono previsti e sui 9 che sono in un fondo speciale congelato che si chiama Fondo Ellenico per la Stabilità delle Banche, e intanto in attesa di cosa? Delle famose riforme ancora su pensioni e lavoro, cioè salario pubblico, i veri nodi che naturalmente il governo Tsipras sa che su quello avrebbe grossi problemi a far passare il piano sia a livello parlamentare e poi naturalmente anche a livello popolare, perché lui ha vinto le elezioni proprio promettendo di ridare la mensilità, ad esempio la tredicesima mensilità alle pensioni, di riassumere i dipendenti pubblici, 4.000 dipendenti pubblici licenziati, insomma di riportare il salario minimo a 751 euro. Naturalmente molti dicono che quello del salario non è un vero problema da finanza pubblica, che sarebbe un problema eventualmente tra Confindustria greca e sindacati dei dipendenti greci, non influirebbe, ma tant'è, si perderebbe la famosa competitività che finora invece la Grecia aveva faticosamente recuperato. Quindi questi due elementi sono ancora fuori, diciamo, dal negoziato, almeno non sono ancora, non si sono ancora raggiunti quel minimo, quella base minima del promesso che permetterebbe di fare un. E quindi si rischia ancora una volta di andare fino ad autunno. Quindi si supererebbe ancora una volta il problema del 5 giugno. Cioè prenderemo altro verrebbe preso altro tempo per non far perdere la faccia a nessuno. Stiamo comprando tempo per cercare di evitare che ci sia qualcuno che dica ho vinto io e tu hai perso, e quindi un pareggio. Sì, però vedi, Vittorio, che qua siamo un po' come in certe coppie che non si mettono d'accordo perché nessuno vuole ammettere di aver sbagliato, hai più sbagliato tu, non ho più sbagliato io. Cioè, il problema qua è di sostanza, non è di forma. Poi Dijsselbloem può dire che sbaglia, Varoufakis a parlare, non tutti, ripeto, frattaglie. Qui il problema è capire, ci spostiamo tutto in là di nuovo a settembre, per carità, noi siamo anche contenti, abbiamo materiale per i prossimi mesi di Focus Economia, ma non risolvi la situazione. Cioè, assolutamente, o tu, dal punto di vista europeo, decidi realisticamente che queste condizioni la Grecia non è in grado di rispettarle e quindi obtorto collo, però invece che far saltare o creare una tensione inenarrabile nell'area euro, dice vabbè, la Grecia troveremo un escamotage, tanto prendiamo atto che non ce la fai a ripagarci questi soldi, oppure alternativa dice no, noi vogliamo, siamo duri e puri, a sto punto la Grecia va in default. Non capisco cosa serve a continuare a comprare tempo quando tu non riesci a prendere una decisione finale, tutto qua. Potrebbe essere un tentativo perché si spera che ci sia un mutamento della maggioranza di governo ad Atene, cioè che la popolazione, la situazione, i sondaggi magari indicano ormai a un punto quello che tu stai dicendo, cioè una scontentezza, una stanchezza di queste continue trattative, e quindi magari si trasformi in una nuova maggioranza che elimini la sinistra radicale di Siriza. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi che alcuni, soprattutto governi del nord, baltici, e, insomma, i falchi come vengono definiti. Sì, ho capito, ma il popolo greco, ci mancherebbe, a tutti i diritti di votare Tsipras se vuole, visto anche che poi sono anche le politiche europee a trazione tedesca di questi ultimi anni che hanno creato il grande movimento di Tsipras e Siriza, nel senso che se forse la Grecia non fosse stata umiliata non saremmo arrivati a questo boom elettorale di Siriza, per cui non capisco veramente come si possa immaginare da qua all'autunno un cambio radicale dell'opinione pubblica greca. Per carità, uno può fare degli esercizi mentali e politici di carattere quasi unanistico a questo punto che vuole, però insomma parliamoci chiaro, i greci hanno appena votato a gennaio, Vittorio. Assolutamente, infatti l'austerity è ormai ampiamente descritta anche da analisti e da economisti non particolarmente radicali, che è ormai necessario modificare, ma non solo in Grecia, in tutta Europa, questo meccanismo, perché se non c'è crescita, non c'è investimento, investimenti pubblici in infrastrutture e in settori nuovi, evidentemente non basta tagliare le spese. Io ricordo che sulle pensioni i greci oggi vanno in pensione appunto a 67 anni e a 65 le donne, hanno tagliato appunto molti dei privilegi che c'erano. Naturalmente ci sono ancora delle finestre per alcuni prepensionamenti, si può sempre migliorare. Sì, si può anche fare più lotta all'evasione fiscale, che in Grecia è ancora un tema assolutamente sconosciuto. Molte pensioni erano date senza reali valori. Insomma, ci sono molti problemi in effetti ancora aperti, però ti ripeto, è ormai appurato che l'austerity è una situazione che non ha portato, cioè il 25% del PIL è stato perso e il debito soltanto per questa manovra è aumentato al 180%, mentre doveva essere, secondo il piano del Fondo Monetario, al 100% in questo momento. E il surplus che continua a essere richiesto è del 4,5% per pagare i crediti. Questa è veramente una situazione difficile. Cioè, quello che tu stai dicendo è che la Grecia, al netto dei pagamenti degli interessi sul debito, ha le casse in regola, nel senso che c'è un surplus di bilancio. Il problema è che questo surplus di bilancio se ne va tutto per pagare gli interessi dei creditori. Ed è chiaro che a questo punto, se tu non lo reinvesti in economia con misure anticicliche, cioè che vadano contro la recessione in atto in Grecia, che è l'unico paese che si è beccato il segno meno nei primi tre mesi dell'anno, è ovvio che tu paghi anche i creditori, ma poi non sai più dove spremere il limone greco, perché insomma, sì, certo, puoi fare un po' più di lotta all'evasione, puoi rimodulare ancora le pensioni, ma una volta che un paese ha un surplus di bilancio, devi decidere tu quel 4% del PIL greco di attivo, se lo rimetti in circolo nell'economia greca, sperando che così il PIL torni a ripartire e la Grecia sia in grado di sostenere i pagamenti futuri, o se lo usi tutto per ripagare adesso i crediti, poi questi restano a secco più avanti, se ho ben capito il ragionamento, Vittorio. Esattamente, perché oggi tu hai i consumi che sono in deflazione, cioè i prezzi in Grecia stanno diminuendo, ma in maniera appunto maggiore che in qualsiasi altro paese europeo, proprio perché i consumi sono stati talmente ridotti al lumicino che non c'è appunto nessuno sviluppo interno, è tutto determinato da export o da turisti che naturalmente portano valuta esterna e quindi comprano servizi o beni, ma il paese ha perso sia come una disoccupazione del 27% che raggiunge quasi il 60% a livello di giovanile, non ha più nessuna possibilità di invertire la rotta se una quota di questo surplus, quindi questo perché oggi i conti sono in pareggio, non viene reinvestito nell'economia e fa aumentare l'occupazione, eccetera, insomma, la sua ricetta. Però qualcuno non lo capisce né a Washington e neanche a Berlino, oltre che a Bruxelles. Esattamente, soprattutto Berlino continua ad avere questa cosa, nonostante l'export di faccio l'esempio di auto, di macchinari, che naturalmente la Germania esporta nei paesi appunto oggi in crisi, ma che appunto hanno dovuto rimettere i conti in ordine, non sono più quelli di una volta, e quindi anche la stessa Germania ha un po' un problema perché deve trovarsi altri mercati. Certo, possono essere gli asiatici, possono essere l'America, ma il problema è proprio cioè, è come se una banca non capisse, tu hai un debito, avessi un debito con una banca e la banca non capisse che o ti mantiene in vita, ti permette poi di reinvestire, e tu avessi impegno un immobile, diciamo, come ipoteca, se tu non fai dei lavori di manutenzione, poi quando questo immobile la banca dovesse anche rilevarlo, lo troverebbe praticamente sfasciato, per cui o tu riesci a dare alla Grecia la possibilità di investire con un piano anche di investimenti pubblici parte di questo surplus di bilancio, o se no se lo usano tutto per pagare gli interessi sul debito, poi non resta più niente e il paese, ripeto, non ha più molto da spremere. Grazie Vittorio D'Aroldi per il collegamento con noi. Adesso il traffico, chiedo scusa per il ritardo. Focus Economia. :24, allora il mondo dell'acciaio, visto che oggi nel corso della manifestazione Made in Steel, che inizia ieri, è il principale appuntamento del mondo dell'acciaio per il Sud Europa, visto che l'Italia è il secondo produttore in Europa dopo la Germania di acciaio, dicevo oggi nell'ambito di Made in Steel, che si sta tenendo a Fiera Milano, a Rho, c'è stata anche l'assemblea di Federacciai, e quindi 150 aziende associate che trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Perché ne parliamo? Perché in realtà all'interno della fotografia scattata di un'industria mondiale dell'acciaio che avrà un tasso medio di crescita fino al 2020 di circa il 2%, per poi avere una crescita più bassa dell'1%, ma vuol dire un incremento del consumo di acciaio di 450 milioni di tonnellate. Vedremo cambiare anche la classifica e la geografia dei produttori d'acciaio, nel senso che la produzione nei prossimi 15 anni sarà trainata dall'India e da altri paesi emergenti. La Cina non sarà infatti più la locomotiva, non sarà più l'area più dinamica, e l'industria siderurgica italiana, va bene, ma va sostenuta per competere, ha detto il presidente di Federacciai Gozzi, che che ha in questo momento problemi, l'abbiamo invitato ma evidentemente non riesce a partecipare, anche perché c'è stata una bella polemica durante l'assemblea di Federacciai, perché Gozzi ha detto che per salvare l'Ilva ci vogliono 2 miliardi e mezzo, e invece se n'è molto seccato per questa dichiarazione il direttore generale dell'Ilva, Massimo Rosini, che si è alzato e ha lasciato l'assemblea. Non condivido per nulla l'analisi del presidente Gozzi, le cifre da lui indicate non trovano alcun riscontro nei risultati della società. Il ministro allo sviluppo Federica Guidi ha detto di essere invece di dare il massimo impegno come governo per la soluzione. Emanuele Morandi, numero uno di Made in Steel, di cui è amministratore delegato, buonasera. Buonasera a lei. Come sta andando anche alla luce dell'assemblea di Federacciai oggi, al di là dello scazzo tra Gozzi e il direttore generale dell'Ilva Rosini, di cui avremmo voluto parlare con Gozzi e che poi non si è presentato in diretta e quindi non possiamo parlarne, caro presidente Gozzi. No, lo dico con estrema polemica, prego. Sì, Gozzi come sempre ha detto in modo molto chiaro la sua posizione, per cui l'Ilva in questa situazione è difficilmente sostenibile. È anche vero che il governo ha preso in mano una situazione che era già particolarmente compromessa, e quindi se la priorità è il risanamento ambientale dobbiamo per forza andare avanti, anche perché in campo ci sono 12.500 dipendenti che non possono essere lasciati a piedi. In più l'Ilva rappresenta veramente un gioiello dal punto di vista siderurgico, ma anche rispetto a tutti gli impatti che ha su tutta la filiera dell'acciaio, perché l'acciaio, ricordiamo, non è soltanto produzione ma è anche distribuzione, logistica, utilizzo, e veramente dal punto di vista strategico perdere l'Ilva o avere un'Ilva ridimensionata vorrebbe dire creare dei grossi problemi a tutto il nostro sistema manifatturiero italiano. Ecco, dicevo in apertura che quello che sta emergendo da questi lavori è anche un mondo della siderurgia che in prospettiva vede non solo cambiare l'asse, e questo già lo immaginavamo, verso i paesi emergenti, ampiamente emersi, quindi Cina e India, ma anche la Cina superare e l'India superare la Cina. Sì, infatti il futuro, la Cina probabilmente nei prossimi anni rallenterà. Noi abbiamo fatto queste previsioni al 2030 proprio per individuare quali saranno i paesi che trascineranno la crescita del mondo. Cina rallenterà perché più di tanto non si può crescere, mentre invece ci sarà come protagonista della scena futura l'India, ma anche tutti i paesi dell'Africa che cresceranno a ritmi incredibili, e non soltanto l'area mediterranea ma anche tutta l'area subsahariana. Quindi sì. Il futuro è quella, mentre per le economie occidentali si prospetta un ridimensionamento. Non toccheremo più le punte del pre-crisi, ma passeremo da una siderurgia pesante, da un'industria pesante a un'industria pensante, perché le innovazioni anche in tutti i processi produttivi, dalle nanotecnologie alla telematica eccetera, ci porteranno ad avere un prodotto di altissima qualità, e quindi potremo competere sulle qualità e non più sui volumi. Devo dire che anche le prospettive a brevissimo dei prossimi 2 anni della crescita indiana sono di un superamento del tasso di crescita rispetto a quella cinese. Grazie anche a Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Domani c'è anche la classifica, la top 5, domani ce ne sono di belle. Radio 24, la passione si sente.